Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Parte oggi da Napoli e dalla Campania il nostro viaggio turistico nelle zone ad alta densità industriale del bel paese. Nord, sud, ovest, est sono i punti cardinali delle storie e delle testimonianze degli imprenditori che quest'estate ci raccontano il loro territorio e il panorama in cui le loro aziende affondano le radici. Hanno scelto di rimanere in Italia e grazie a questa scelta l'esportazione dei distretti corre, basta solo un dato. Nei primi tre mesi del 2017 è balzata del 6,4% rispetto all'anno scorso, secondo Monitor 2017 di Intesa San Paolo, indagine sui 147 distretti italiani che valgono l'80% del tessuto produttivo nazionale. Ma rimanere nel loro territorio non è un rifiuto dell'internazionalizzazione. La solida base di partenza nell'area di origine rilancia diversi settori radicati sul territorio, dal turismo alla cultura al commercio. E grazie alle innovazioni concrete delle PMI, dal welfare all'industria 4.0 e dai territori che parte la ripresa. Sono nate in Campania, dove da sempre caffè, pasta, pizza e il settore agroalimentare sono punta di diamante, ma a sorpresa anche l'alta tecnologia, qui un record di esportazioni. Le abbiamo incontrate al primo Festival dello Sviluppo Sostenibile, partito da Napoli e organizzato da ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, cui aderisce Confindustria e che riunisce oltre 160 organizzazioni del mondo economico e sociale. Laureata in filosofia, entra nell'azienda manufatturiera di famiglia, uno stabilimento di tute blu, nel 73, negli anni detti di piombo. Da quel momento, senza dimenticare produttività ed export, non ha mai smesso di impegnarsi per la conciliazione vita e lavoro e per l'uguaglianza. Stefania Brancaccio, cavaliere del lavoro, vicepresidente della società Coelmo S.p.A., produttrice di gruppi elettrogeni industriali e marini. Nasce nel sud, nasce nel 1946, siamo alla terza generazione oramai, già consolidata, con un strano collegamento. La famiglia, c'è una parte di quelli che fanno i pastai, i Monsurò anche era pasta, e un'altra parte i meccanici della famiglia Monsurò, e cominciano a parlare di macchine elettriche per l'asciugatura, ventilatori per l'asciugatura proprio della pasta. Quindi è, diciamo, un'azienda trasversale rispetto ai settori del territorio, diciamo, campano. Dei territori campani, perché una volta Torre Annunziata, Gragnano erano i primi centri importantissimi perché erano molto industrializzati. Oggi abbiamo dei territori depauperati, c'erano i porti, erano città veramente importanti dal punto di vista economico per il nostro meridione. Che legame avete con i napoletani? Lei immagini che i nostri stabilimenti sono siti in quelle aree che vengono definite dal mondo le aree peggiori, che ci sono la terra dei fuochi. Noi siamo nella zona di Acerra, quindi sono territori che sono stati, diciamo, un po' massacrati dalla stampa, ma che di per sé, all'interno della quale si sono stati rilevati veramente disastri ecologici. Un primo passo che noi facemmo, aderendo come carta e come prima mappa, prima vademecum, perché noi abbiamo sottoscritto, una delle primissime aziende, quasi agli albori del 2002, abbiamo aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, quindi abbiamo sottoscritto la carta e i suoi 10 punti. Appena ci siamo reinsediati in questa area, che è qui ad Acerra, abbiamo convinto le amministrazioni di questo paese ad aderire al programma del Global Compact Cities, che fu lanciato nel 2003, e quindi al territorio, e quindi l'attenzione e l'educazione in questo problema terrificante, che è quello qua dei rifiuti ecologici, quindi attenzione all'ambiente, contro la schiavitù del lavoro, perché qua abbiamo anche l'approdo di tantissimi extracomunitari. Abbiamo cominciato insieme questo percorso di sostenibilità, sia noi di impresa che del territorio dove noi dove siamo stati allocati. L'impresa prima di tutto deve essere sana. I numeri, quali sono i vostri numeri, qual è il vostro modello di business, a chi vendete, e il fatturato, i dipendenti? primo indice che io dico è quello della buona sanità e bisogna fare utile, perché altrimenti l'azienda non può parlare. Noi siamo intorno ai 35-40 milioni di fatturato, i nostri diretti sono 70, con un indotto che è intorno alle 100 persone. Noi vendiamo dalla progettazione, realizzazione ed installazione dei nostri gruppi elettrogeni, esportiamo l'80% del nostro prodotto all'estero. Abbiamo sedi, una branch a Dubai ed una in Cina. Quindi quanto esportate? All'estero, e quell'estero è tutta quella parte del Medio Oriente, tutta la parte dell'India, tutta la parte così che assorbe l'80%. Di meno è l'Europa, ma siamo presenti anche lo stesso in Europa. Napoli, città della scienza, sono nati nuovi distretti oppure le nuove professionalità possono trovarsi anche sul territorio? Come sta cambiando? Abbiamo un'ottima università, la nostra Federico II, la Università di Salerno, l'Università di Vanvitelli, con cui collaboriamo moltissimo ed azienda. Stiamo anche noi intervenendo sulla progettazione di nuovi programmi e di nuove lauree necessarie all'inserimento nell'ambito di lavoro. Napoli è anche città di turismo, non è soltanto nel food, nella pasta, ma anche nelle esposizioni della scienza e della tecnica. Sì, Napoli sta riconquistando il suo posto, che con grande orgoglio io dico che è stato quello di capitale europea. Nascere a Gragnano vuol dire vivere i sapori e i profumi della semola di grano duro e dell'arte antica di produrre la pasta, come da generazioni succede per la famiglia imprenditoriale di Susanna Moccia, responsabile esportazioni la fabbrica della pasta di Gragnano, che oggi può contare su un 70% delle vendite fuori dall'Italia. Noi siamo pastai da 3 generazioni e siamo quasi all'ingresso della quarta. Nostro nonno produceva pasta e successivamente nostro padre è stato chiamato dalla semola che scorre, io dico sempre, nel nostro sangue, e poi successivamente siamo subentrati noi. Nostro padre aveva un pastificio industriale a Gragnano che successivamente, dopo vicissitudini, quando lui purtroppo è venuto a mancare, abbiamo venduto, però abbiamo rifondato il pastificio dedicandolo completamente a lui, trasformato da industriale ad artigianale. Il nome stesso è importante, nel senso che voi date il nome alla pasta con il nome del territorio, il nome della città, Gragnano, e in ogni caso avete anche un legame con la stessa materia prima. Noi siamo nati a Gragnano, siamo cresciuti e continuiamo a viverci. Ci sentiamo legati al territorio perché ci ha dato tanto. Sono 500 anni che si produce pasta. La peculiarità della produzione sta nel fatto che Gragnano è al centro dei Monti Lattari. Quindi c'è una strada particolare a Gragnano che in italiano si chiama Lama del Vento, in quanto c'è la perfetta congiunzione dei venti freddi che scendono dal paese vicino Lettere e dal paese vicino situato sul mare Castellammare. In questa strada di via Roma, ripeto, chiamata Lama del Vento, c'è sempre, anche a tutt'oggi, nonostante diciamo l'avvento delle automobili, il vento costante 365 giorni l'anno. I palazzi sono attaccati completamente l'un l'altro e hanno una forma semicircolare, e questa possibilità di conduzione dei venti dava l'opportunità a tutti i passai di poter essiccare la pasta al sole. Ma oltre il vento c'è un'altra caratteristica importante, è l'acqua, perché a Gragnano c'è una fonte che si chiama Fonte Imbuto, e appunto quindi l'acqua sempre fresca che scende giù per la collina di Gragnano dà la possibilità a tutti i pastai di avere comunque qua l'acqua fresca, perché Gragnano è alle spalle di Amalfi. Amalfi era una delle repubbliche marinare, lì arrivava il grano, e a dorso di mulo sulla collina scendevano i sacchi di grano che venivano moliti nella Valle dei Mulini che c'è a Gragnano. Prima c'erano 14 mulini con la pala orizzontale, quindi rivolta verso il basso, non quella, diciamo, la classica del mulino laterale, ma è quella, non si vede tutt'oggi, e come gragnanesi, diciamo che siamo attenti al nostro territorio, abbiamo deciso di adottare i diversi mulini che ci sono in questa valle. Ecco, questo è importantissimo, perché è tutta una comunità che lavora per questo settore, per questo distretto, per questa produzione, e quindi voi come restituite come azienda? E facciamo le visite guidate, quindi diamo la possibilità ai turisti di venire a Gragnano, visitare i pastifici, la produzione, vivere un giorno con noi, cosa significa significa lavorare in fabbrica, vedere la Valle dei Mulini, la fonte e poi anche un po' di zona turistica, perché a Gragnano esiste l'arazzo più grande d'Europa, è un'unica tela in una chiesa, in una piazza importante dove c'è una fontana dove sgorga sempre l'acqua, non è mai chiusa proprio perché è diretta con la fonte. Industria, turismo sul territorio sono strettamente legate. Qual è il vostro modello di business? L'avete dovuto cambiare nel tempo? Un po' sì, perché non c'era la mentalità del turista, della visita. Prima si era abituati, in ogni portone di Gragnano c'era un pastificio, facendo anche squadra all'interno di un consorzio che abbiamo a Gragnano, e tre anni fa, anzi quattro, abbiamo finalmente ottenuto l'IGP per la pasta di Gragnano, infatti ne abbiamo il certificato numero uno. Abbiamo circa 50 dipendenti, molto soggetti alla stagionalità, quindi nei periodi di alta stagione, perché per noi va da agosto a dicembre, ci avvaliamo magari di stagionali piuttosto che cooperative che ci danno una mano, quindi raddoppia anche il personale. Nella parte amministrativa 99% siamo tutte donne e ce ne sono anche in produzione, quindi diamo a loro la possibilità di lavorare sereni, di dedicarsi comunque alla famiglia. Intorno ad un piatto di pasta fumante penso che il sorriso arriva spontaneo. Questa e altre storie in anteprima, inedite o in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.